La nuova finanziaria sta compiendo il suo iter parlamentare e, mai come quest'anno, si sono registrati incidenti di percorso. Infatti, le denunce al documento del governo vengono anche da esponenti politici che dello stesso hanno fatto parte, come Giulio Tremonti, che accusa la finanziaria di non essere né di sviluppo né di rigore. Dalle opposizioni ai sindacati e alle associazioni di categoria sono molti i punti della manovra che vengono criticati. Il segretario del DS Piero Fassino insiste nell'indicare come i conti pubblici siano fuori controllo e come il governo cambi la finanziaria ogni giorno. Anche la Confindustria, sempre inclina a porgere l'altra guancia al governo, sta alzando la voce per un chiarimento sui conti che tarda ad essere messo in atto. Ma è sulle risorse da destinare al Sud che la polemica, anche all'interno della compagine governativa, si fa ogni giorno più aspra. Il sottosegretario all'economia Miccichè, che proprio per il Sud ha la delega, minaccia di dimettersi se non verranno aumentati i fondi per lo sviluppo del Meridione. Che il Meridione sia inserito appieno nell'agenda politica finanziaria italiana è lo stesso capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, a ribadirlo. Intollerabile lo spreco di risorse umane, naturali e di potenzialità, intollerabile un tasso di disoccupazione nazionale doppio rispetto al resto del paese, dichiara da Caltanissetta. In effetti è stato approvato l'articolo 27 della finanziaria che dovrebbe incentivare l'afflusso di capitali per le piccole e medie imprese innovativi presenti nel Mezzogiorno, attraverso contributi in conto interesse per i mutui non inferiori a 5 anni e non superiori a 10. Queste manovre però non convincono i sindacati, in particolare la CGIL, che denuncia un vero e proprio abbandono del Sud. Ai nostri microfoni Franco Garufi, coordinatore del Dipartimento Economico della CGIL, che si occupa proprio delle questioni del Mezzogiorno. La valutazione è assolutamente negativa. È una finanziaria che saccheggia risorse per il Mezzogiorno, è una finanziaria che toglie al Mezzogiorno, toglie alle imprese, toglie che ai lavoratori, toglie ai pensionati. Cito qualche esempio: il tetto posto al fondo aree sottoutilizzate determinerà una riduzione notevole delle risorse disponibili per lo sviluppo. C'è un taglio dei fondi comunitari e sono state sostanzialmente bloccate o comunque fortemente limitate le disponibilità per nuove opere infrastrutturali. Aggiungo che nel testo di collegato, che ancora informalmente comincia a circolare, c'è un ulteriore taglio di risorse per il Sud pari ad oltre 1 miliardo di euro l'anno. Siamo di fronte ad un disastro che provocherà conseguenze pesantissime nel Sud, sia sul terreno economico che su quello sociale. Ecco, presumibilmente ci sarà una battaglia parlamentare su questo, ma sul fronte sindacale quali saranno le mobilitazioni? Intanto lo sciopero generale del 30 di novembre, uno sciopero di 4 ore contro la finanziaria che assumerà proprio nel Sud una particolare valenza. Poi i segretari generali di CGIL CISL UIL, come pubblicano i giornali di oggi, stanno lavorando per una grande iniziativa dei quadri dei delegati meridionali che dia attenzione nazionale ai problemi del Sud. Infine nel Sud i territori, le regioni si stanno mobilitando per impedire che i lavoratori ed i pensionati, i giovani, i disoccupati vengono ulteriormente danneggiati dalla manovra finanziaria.